ricordo ciò che è passato e non tornerà. Il mio cuore va e non va, l'inverno che mi abbraccia, che congela il terreno, e i miei rimpianti sono rinchiusi al freddo e al gelo. E le risate fatte, tutte le cazzate, sì, con te lo dico, lo urlo e poi mi domando: ora che farai? Dove poi tu arriverai? Quei momenti non se ne vanno, solo lacrime lasceranno. Oh, oh, oh. Cammino avanti e dietro nel tempo, il tuo fiato è solo un tormento. Sento ancora le tue parole, sento l'anima che muore. Guarda le nostre foto insieme e quando ci volevamo bene. L'amicizia è un nodo che se lo sciogli ti rimane il segno nelle mani. Pensa quante volte ancora ti divertirai con gli amici in un mare di emozioni che evaporano nel cielo. La nostra vita è come una pianta, più tu la annaffi più si migliora, e poi se tu la trascuri sì e sì che pian piano peggiora. Non mi scorderò mai ancora quante volte abbiamo litigato, quando c'era l'accenno di vista, amico arbitro entrava in vista. Ora che farai? Dove poi tu arriverai? Quei momenti non se ne vanno, lasceranno. Oh, oh, oh. Ora chi vorrai, quale amico troverai, i ricordi non spariranno, un amico è un tatuaggio. Oh, oh, oh. E sono qui, non correrò dentro questo mondo, questa pura follia. Sarà sempre una stella in cielo che unirà, il passato non tornerà, volerà sopra di noi.